fretta sempre e non avere niente da fare, avere sempre fame senza avere voglia di mangiare, avere ogni istruzione e non avere nulla da costruire, è una contraddizione avere così ragione da impazzire. Avere tutto pronto e non avere idea di dove andare, avere un grande sconto senza aver bisogno di comprare, avere ogni colore e non avere nulla da disegnare, è una contraddizione avere la medicina che ti fa ammalare. Nell'era degli interruttori sei rimasto senza luce, nell'era dei prestigiatori scompare sotto gli occhi la tua voce. Avere fretta sempre e non avere niente da fare, avere l'agenda piena di numeri che non vuoi chiamare, avere le catene e fare finta di volare, c'è una contraddizione, prima la vedi prima ti potrai salvare, c'è una contraddizione, prima la vedi prima ti potrai salvare. Nell'era degli interruttori sei rimasto senza luce, nell'era delle comunicazioni non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce, non hai mai sentito la tua voce.